I prezzi dei carburanti sono aumentati di quasi il 60% nell'ultimo anno, facendo diventare il pieno una delle maggiori voci di spesa delle famiglie italiane. Un vero incubo, aggravato dagli aumenti record registrati dal barile nelle ultime settimane, che hanno spinto listini di benzina e gasolio a livelli mai raggiunti prima d'ora. Per alleviare il peso che grava sulle spalle degli automobilisti, i costruttori hanno in cantiere auto capaci di percorrere 30 km con un litro. Nell'attesa che i nuovi modelli siano disponibili, non resta che fare oculate scelte al momento dell'acquisto dell'auto nuova. Tra quelle che consumano meno, avvicinando i fatidici 30 con un litro, c'è infatti la Smart Fortus CDI, protagonista di un inconsueto test di durata. Coprire 1000 km coi 33 litri del serbatoio, che è stato doverosamente sigillato subito dopo il pieno. Prima di raccontarvi com'è andata, ecco le sue caratteristiche principali. Nome: Smart Fortus CDI. Carrozzeria: berlina 2 volumi, 3 porte a 2 posti. Dimensioni: lunghezza 2,70 m, larghezza 1,56 m, altezza 1,54 m. Motore: posteriore trasversale turbo diesel 3 cilindri in linea di 799 cc. Potenza: 45 cavalli. Trasmissione: trazione posteriore, cambio robotizzato a 5 marce. Prezzo: 11.641 euro.